La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta qui dagli studi di Milano, sono le 16.30 primi 38 secondi e grazie per l'ascolto come sempre e vi ricordo l'indirizzo perché per esempio la puntata di oggi viene esattamente da segnalazioni di cui sarò particolarmente grato che sono pervenute, l'indirizzo della versione di Oscar Giannino radio24.it. Questa puntata è un aggiornamento per così dire su materie che riguardano l'agenzia delle entrate, quindi noi e il fisco. Non vi chiedo di telefonare, tranne che se qualcuno vuole commentare perché devo dare più notizie e poi presentarvi un ospite appunto che ci ha segnalato una vicenda di cui ci parlerà, però prima vi leggo delle notizie, quindi se volete commentare queste sono particolarmente curioso. Numero è 800 24 0024, il cellulare per gli sms 349-238-6666, perché questa è stata una settimana un po' particolare per l'Agenzia delle Entrate. Sapete che l'Agenzia delle Entrate con la sentenza 37 del 2015 è stata durissimamente censurata dalla Corte Costituzionale per via dei dirigenti illegittimi, cioè l'autonomia perseguita con il modello organizzativo dell'Agenzia delle Entrate l'aveva portata ad avere dirigenti su incarico personale al di fuori dei meccanismi di concorsi, e la Corte Costituzionale ha detto no, voi non potete andare avanti così. Grande contenzioso a quel punto sull'esecutività degli atti firmata da chi era dirigente ma non ne aveva titolo, ne abbiamo più volte parlato, scontro iniziale perché l'Agenzia delle Entrate non considerava questa una sentenza che ne abbatteva l'operatività, però insomma in buona sostanza sia pure attraverso la nomina di alcuni incaricati temporanei per garantire l'operatività, la Corte ha detto no, voi dovete fare i concorsi. Cosa avviene questa settimana? Una raffica di annullamenti, perché i concorsi, anche quelli deliberati prima della sentenza della Corte Costituzionale, che ripeto è del 2015, la sentenza 37, sono stati più e più volte impugnati da i dipendenti, sindacati e dipendenti, per esempio d'Irstat e così via. E questa settimana due di questi concorsi sono in corso in delibere da parte dei tribunali amministrativi che li hanno ribaltati, cioè li hanno annullati. Perché prima il 20 settembre la terza sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso che era stato presentato contro il reclutamento di 403 dirigenti appunto dell'Agenzia delle Entrate, e questo è un concorso per titoli di esame che era stato indetto dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014, 403 dirigenti, e la sezione del TAR accoglie l'istanza che è stata fatta contro questo concorso perché era stato bandito in violazione della legge. Questo io ve lo dico solo perché, siccome è la parte dello Stato che più ci fa le prediche etiche sul fatto che gli evasori, chi non rispetta la legge e così via, non solo è andata avanti per anni con un meccanismo di nomina dei dirigenti che la Corte Costituzionale ha sanzionato, ma anche quando bandiva i concorsi li faceva dice il TAR, non Oscar Giannino, in violazione della legge. In cosa consisteva la violazione della legge in questo concorso su cui si è pronunciata la terza sezione del TAR del Lazio? Perché il bando aveva ampliato la riserva dei posti agli interni, guarda caso, nella misura del 50% dei messi dei posti messi a concorso, e il 50% non è possibile secondo le leggi vigenti. In più non si diceva come sarebbero state, come si sarebbe tenuto conto dei titoli dei candidati. In altre parole, perdonate, questo naturalmente non c'è nella pronuncia del giudice amministrativo, il meccanismo era tale da suscitare, per così dire, molti sospetti, sia per la percentuale di posti riservati all'interno, sia perché non era stato emanato il decreto con cui si precisava come la commissione giudicatrice avrebbe pesato i titoli dei concorrenti. E qui primo concorso che risulta firmato. Oggi esce un'altra notizia per un altro concorso, questa volta il Consiglio di Stato, quindi il giudice amministrativo di secondo grado, che sospende il concorso per reclutamento di 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Questi sono dirigenti di seconda fascia e gli orari dovevano cominciare lunedì prossimo, quindi, però il concorso viene sospeso, quindi è un'ordinanza cautelare. Era già stato in realtà questo concorso è indietro nel 2010 ed è già stato fermato a causa di un ricorso di Dirpubblica. Perché in questo caso chi lo contesta chiedeva che nella valutazione dei partecipanti si tenesse conto anche dei punteggi già accumulati da chi aveva ricoperto il ruolo dirigenziale da incaricato. Quindi, come vedete, questa motivazione è molto diversa dalla prima, ma senza entrare nei particolari, continuiamo ad avere a che fare con meccanismi completamente singolari, diciamo così, della nomina di dirigenti di prima e seconda fascia nell'Agenzia delle Entrate. Questo tanto per dire che cosa questa settimana ha riservato all'Agenzia delle Entrate. A questo punto, con un ascoltatore che si chiama Fabio Baldi e che ringrazio moltissimo di questo esercizio che mi ha inviato e di cui vi metto a parte, ci siamo posti il problema, ma vogliamo capire un po' meglio chi sono questi 324 dirigenti di prima fascia oggi in organico all'Agenzia delle Entrate, seppure con il meccanismo che vi ho ricordato dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Stiamo parlando di dirigenti in cui la stima fatta dal professor Roberto Perotti nel suo libro, che continuo a invitarvi a leggere, Status Quo, è di una retribuzione media di 220.000 euro con punte anche più elevate, perché naturalmente la media, perché dipende poi dagli obiettivi raggiunti sull'accertato. Come sapete, gli incentivi dell'Agenzia delle Entrate sono sull'accertato, non sull'incassato nella lotta all'evasione. Quindi, insomma, ben retribuiti, per così dire, parecchio ben retribuiti, se pensate che un preside sta a 30 e qualche cosa mila euro ed è un dirigente scolastico, ma è un dirigente pure lui, per così dire. Con Fabio Baldi ci siamo posti il problema di capire, lui si è andato a scartabellare quindi tutto quello che risulta nel sito, per ciascuno dei 324 dirigenti, e c'è un particolare che ci tenevo particolarmente a rendervi noto, e questo mi piacerebbe sapere davvero che cosa ne pensate, perché su questi 324 dirigenti si scopre che ben 89 su 324 vengono da una sola regione italiana, cioè la Campania. 89 su 324. E solo 51 vengono da Napoli, dalla provincia di Napoli, e così via. Poi si sommate 17 di Caserta, Avellino, eccetera, eccetera, Salerno, arrivate al numero di 89 su 324. Non basta, sul totale di questi 324 il 72% viene dal sud e dalle isole. Attenzione, io non ho alcun elemento di carattere antropologico razzistico in questo tipo di valutazione del dato, ma chiedo a voi, perché questa è la domanda che io ho fatto all'amico che ci ha scritto e che ha fatto questo esercizio di approfondimento, e chiedo anche a voi come lo chiedo a me stesso, con dirigenti, perché questi sono dirigenti nominati fuori dal concorso, quindi col meccanismo che per anni è stato vigente prima di essere bocciato dalla Corte Costituzionale. Può essere un caso, per carità, può essere un caso, però se 89 su 324 vengono da una sola regione, la Campania, e tenete presente che poi Milano ce n'è uno da Milano, Monza Brianza 0, Novara 0, Piacenza 0, Padova 0, e così via, in tutto il nord, la maggioranza delle province del nord, zero. Allora, il dubbio che viene, cari ascoltatori, è che il meccanismo di nomina senza concorso che l'Agenzia delle Entrate ha praticato per anni in nome della sua autonomia, in realtà portasse inevitabilmente a delle nomine per cordata, magari per interpretazione omologa delle norme tributarie, perché sapete che il problema con cui hanno a che fare coloro che devono interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate sull'interpretazione degli obblighi fiscali aveva delle, diciamo, pluralità di interpretazioni a seconda delle emanazioni territoriali. Magari non solo per omologazione di interpretazione delle norme, però magari anche per obbedienza personali o per vicinanza o per cognazioni, possibile mai che 89 su 324 dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle Entrate siano di una sola regione e 51 da Napoli su 324, mentre in tutto il resto delle province del nord, eccetera, al massimo ce n'è uno come a Milano, o Alessandria, sovrarrappresentatissima, Alessandria c'ha ben tre dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle Entrate, ecco, incredibile a dirsi. Allora, Questo naturalmente è un mero esercizio di approfondimento che però a seguito delle bocciature che i giudici amministrativi continuano a riservare, due in questa settimana, ai concorsi dell'Agenzia delle Entrate, ci continuano a consegnare un problema irrisolto dopo la sentenza della Corte Costituzionale. E questo problema irrisolto si chiama rispetto della legge, rispetto dei principi generali della pubblica amministrazione e trasparenza. Ecco, io lo dico senza alcuna polemica perché ho una stima assoluta di chi lavora all'Agenzia delle Entrate, molti tra quelli che conosco sono di grandissima professionalità, però nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate continua a esserci un problema molto importante e io vorrei, mi limito a esprimere questo auspicio come contribuente prima che come giornalista, che la politica ci mettesse un occhio un pochino più attento su quello che avviene, perché a me come contribuente vedere questa raffica di annullamenti di concorsi, di pronunzie dei giudici amministrativi, nonché andare a scoprire che c'è questa concentrazione così singolare, non dico sospetta, ma singolare, delle aree di provenienza dei dirigenti nominati non per concorso, beh, insomma, non mi fa dormire tranquillo. E fin qui quello che è successo è la segnalazione dell'ascoltatore. Ma adesso andiamo a un altro ascoltatore che ci ha segnalato un problema che anch'esso riguarda noi tutti contribuenti. E io intanto lo ringrazio, è un avvocato e commercialista, di averci scritto e aver attirato la nostra attenzione su questo problema risolto che, come vedrete, ha a che vedere con il rispetto dei diritti di noi contribuenti. L'avvocato commercialista in questione è Francesco Mattarelli, io lo ringrazio di essere collegato con noi. Buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, lei ci ha scritto dicendo qui c'è un problemino aperto, perché il governo aveva fatto una buona cosa, rendiamogliene atto, nell'ambito del contenzioso tributario, se non che l'annuncio e il primo decreto resta però privo di efficacia. Cerchiamo di spiegarlo anche a chi non è un tecnico. Giannino, mi lasci prima semplicemente fare una brevissima parentesi su quello che diceva e per confermare la solidarietà ai moltissimi dirigenti, i giovani soprattutto, certo, che in questa condizione hanno una vita veramente difficile, esatto, e lo scontiamo da anni, avendoci a che fare, è una condizione in cui loro operano veramente molto in difficoltà, sapendo che ce ne sono di molto validi e lavorare nell'incertezza non è sicuramente facile. Venendo al punto che segnalavo, il punto è legato, diciamo, a uno degli aspetti più importanti del processo, cioè la parità delle parti, che delle parti diciamo nell'ambito del processo, e quindi nella fattispecie un aspetto che nel tempo da sempre era uno degli aspetti più macroscopicamente evidenti di disparità, cioè il trattamento del contribuente che avesse un diritto di rimborso. Cerco di essere molto sintetico e anche semplice se possibile nell'esporlo. Da sempre il contribuente che ha un diritto, che vanta un diritto alla restituzione nei confronti di un ente impositore, non solamente l'agenzia, ha avuto e che debba farlo valere davanti al giudice, non ha mai avuto la possibilità, a seguito di sentenze favorevoli, di avere concretamente il bene della vita, cioè la cassa, e di poter veramente trovare soddisfazione nell'esecuzione della sentenza, cioè quello che dispone la norma, che ha sempre disposto la norma, è che il contribuente, prima di poter veramente vedere attuato il rimborso a suo favore, concretamente, salvo la benevolenza della controparte, doveva fare tutti i gradi di giudizio e arrivare a un giudicato, che tradotto in, come dire, tre gradi di giudizio laddove la questione fosse stata contesa, poteva voler dire aspettare 10 anni prima di vedere Campagavallo, per così dire. Perché in sostanza, conoscendo i tempi della Cassazione, i tempi dei vari giudici, che sulle varie commissioni nel territorio sono i più diversi, ma le più efficienti non si fanno più di due gradi di giudizio in più di 2 o 3 anni, insomma, questi sono grosso modo i tempi. Però dov'è la disparità? Con punte fino a 16 anni. Eh beh, sì, in certe commissioni. 16 anni, capite, situazione. Cari ascoltatori, hai voglia, caro contribuente. Vabbè. Eh sì, ma diciamo dal punto di vista, dov'è la disparità? Diciamo che il contribuente vede la disparità quando a fronte di una sua pretesa creditoria vede anche la pretesa creditoria dello Stato quando questo agisce con un accertamento, con una cartella, con qualsiasi cosa. In questo stato, in questa condizione, in questa situazione era evidente invece che lo Stato può pretendere o subito tutto dopo la sentenza di primo grado. Non sto a spiegare il tecnicismo, perché qua non era una questione di esecutività della sentenza, ma del fatto che proprio gli atti impositivi di per sé portano, conducono allo Stato, danno allo Stato, all'ente impositore, il potere di riscuotere. E quindi nella sostanza il contribuente vedeva, quando io sono creditore non vedo mai, anche a fronte di giudici che mi danno ragione, non vedo un risultato, quando invece io sono debitore basta una sentenza o anche meno per dover pagare. Interrompo qua perché abbiamo un minuto di traffico. Vi sia chiaro, cioè, funzionava così, ha funzionato così per anni e anni e anni e per decenni. Lo Stato, vincendo il primo grado, titolo esecutivo in cassa e viene da me. Io, contribuente, dovevo aspettare la Cassazione, diciamo 10, 12, 14 o fino a 16 anni se avesse vinto. Ecco, questa era la cosa in cui la disparità che ci rende sudditi e non cittadini di diritti all'incasso tra lo Stato da una parte e il contribuente dall'altra, a seconda che uno avesse ragione, solo che la sua ragione, lo Stato, valeva molto più della nostra. Giusto? Naturalmente no, mi verrebbe da dire, ma questo era il nostro ordinamento. Torniamo tra un minuto per vedere come è cambiato e soprattutto, cari ascoltatori, ma è cambiato davvero? Ecco, tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, sono le 16.48, quasi 49. E, dopo avervi informato di queste sentenze dei giudici amministrativi contro due concorsi dell'Agenzia delle Entrate per dirigenti di prima e seconda fascia annullati, dopo avervi detto un po' questo dato singolare della composizione regionale dell'attuale prima fascia di dirigenza dell'Agenzia delle Entrate, siamo con Francesco Mattarelli, avvocato commercialista, che ci ha ricordato come funzionava il nostro ordinamento fiscale nel contenzioso tributario in ordine alla immediata esecutività delle sentenze della Commissione Tributaria. Lo Stato, se ci fa in prima, insomma, aveva i titoli per arrivare immediatamente al titolo esecutivo e incassare. Il contribuente doveva aspettare fino alla Cassazione, quindi anni e anni e anni. A questo punto però interviene una novità, no, Mattarelli? Riprendiamo, diciamo, nel 2014 il nuovo governo mette insieme una serie di deleghe, il nuovo governo, il legislatore, il Parlamento, una serie di deleghe per la riforma del processo tributario, l'abuso del diritto, insomma, le conosciamo, sono le norme, sì, almeno chi segue la materia fiscale, sì, sì. Le deleghe che poi hanno avuto attuazione con il decreti legislativi dell'autunno del 2015. Sì. Tra queste c'era una delega che prevedeva che nell'ambito del processo si prevedesse la immediata esecutorietà delle sentenze nei confronti di tutte le parti. Oh. Questa novità salutata, diciamo, evidentemente con favore da tutti, perché era finalmente ciò che si attendeva rispetto a questo, cioè, aspetto della disparità. Il passaggio da sud a cittadini, siamo qua. Sì. E a cui fa seguito nel decreto legislativo emanato nel settembre dell'anno scorso l'inserimento dell'articolo 69 nell'ambito del processo, che dice che le sentenze di condanna in pagamento a favore del contribuente sono immediatamente esecutive. Oh, molto viva, netto, molto viva, preciso, viva, in equivoco. È ovvio che il contribuente... In equivoco però significa immediatamente operativo? No, il punto è questo, cioè, giustamente il legislatore, mentre io contribuente, quando mi viene riscosso ingiustamente una somma, se poi devo andarla a ripetere dallo Stato, non ho problemi di solvibilità dello Stato. Lo Stato poteva avere invece, una volta aver pagato una somma in forza di una sentenza a un contribuente, poteva avere il problema di riscuoterla. Quindi giustamente il legislatore dice: ah, bisogna mettere una norma sulla garanzia, è necessario che il giudice, nel momento in cui dispone il rimborso, valuti la solvibilità del soggetto che l'ha richiesto e eventualmente disponga una garanzia. Su questa garanzia cosa succede? Che si decide nell'ambito del decreto, meglio, se nell'ambito del decreto si dice ci deve essere un decreto ministeriale che stabilisce come sono fatte queste garanzie. E qua casca l'asino, perché nel momento in cui si tratta di attuare disposizioni transitorie della nuova norma, si dice attenzione, questa nuova norma, l'articolo 69 insieme ad altre, questo in particolare, fino a che non si fa il decreto, dico molto semplicemente, non è congelata, cioè la norma è entrata in vigore dal 1 giugno 2016, ma rimane congelata, ferma, fino a che non ci sono questi decreti. Quindi la situazione è un po' paradossale, è che una norma che evidentemente va ad essere una norma di sfavore per una delle due parti in causa, perché se vogliamo vedere il Ministero delle Finanze in qualche modo una delle due parti in causa, dipende nella sua attuazione proprio dal fatto che il Ministero si adoperi per fare il decreto. La norma era ottima, diciamo, un ottimo intendimento del governo, un'ottima norma ben fatta, puntuale, ma purtroppo e quindi restiamo, il Ministero con questa inerzia, secondo me, per una si sta autotutelando, perché comunica qualcosa che non è quello che no, si autotutela, perché così, siccome non emana la norma attuativa su queste garanzie, non pagherà se condannato in primo grado. È una lettura malevola, non voglio pensare male, non sono un andreottiano in questa Io, però sono fattuale, perché siccome la norma la deve emettere lo stesso soggetto che se perde deve pagare subito, non ha il massimo dell'incentivo. Lasciamo perdere poi il fatto che anche il giudice tributario è pagato dallo stesso MEF. Questo sì, fa parte degli altri aspetti dei problemi relativi alla terzietà del dolce, sono esatto, più complessi, meno evidenti. Questo però era un tema che era veramente palese, di disparità manifesta, che era ottimo aver risolto. Quindi questa inerzia rovina un po', diciamo, toglie abbatte integralmente. Ecco. E i giudici oggi vedremo come si comporteranno, comunque, perché ad oggi non abbiamo solo una sentenza, almeno nota alle cronache, che ha dovuto affrontare questo tema e l'ha bypassato dicendo che non essendoci bisogno di garanzia nella fattispecie l'ha ritenuto. Perché un giudice in realtà potrebbe farlo benissimo. Dunque lì c'è un problema forse di costituzionalità in termini di ragionevolezza, di disparità di trattamento, anche di eccesso di contrasto con la delega, perché nella delega non c'era nessun riferimento ma negli altri paesi, che lei sappia, negli altri ordinamenti funziona così, cioè se il cittadino, l'impresa perde paga subito anche dopo il primo grado, mentre invece se perde lo Stato si aspetta fino alla Corte di Cassazione? Ovviamente insomma le situazioni sono più lineari, ecco. Tutto evidentemente, insomma, è difficile anche quando si ha a che fare con spiegare questi problemi che abbiamo in Italia, però insomma non ripeto, la delusione sta nel fatto che l'intervento era ottimo, ma purtroppo allora io ringrazio anche la compostezza con cui l'avvocato e commercialista Mattarelli vi ha esposto come per una volta che si riesce dopo decenni a mettere sullo stesso piano il contribuente e lo Stato. Peccato che la norma attuativa la debba emanare proprio colui che dovrebbe pagare prima se perdesse, e quindi la norma non c'è, e quindi restiamo sudditi. Le cose vanno così, bisogna sempre solo sopportare. Noi siamo legalitari, però insomma, voi capite che poi quando mi dicono che tutto va per il meglio, qualche punto, ecco, almeno no. Grazie anche a Mattarelli. Intanto voi dico che dalle 10 alle 12 domani siamo sui Conti della Belva con la nostra Lega Compagnia, che Alberto Calamaro Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, ovviamente a commentare banche, crisi, il diritto di sciopero, parleremo anche di quello domani, e un'altra vicenda particolare su il diritto e i soldi di una categoria di